Buonasera a tutte e a tutti, ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Onda Rossa. Giovedì 11 aprile, 18.44, andiamo in onda con una nuova trasmissione di Profondo Rosa. Trasmissione dedicata a scena e cultura LGBTIQ. Sì, perché ridi? A me questa cosa mi fa sempre ridere, non so perché. Sei ridanciano. In ogni caso vi ricordo un po' di recapiti: lo 06 49 17 50, il contatto telefonico della radio, www.ondarossa.info, il sito internet. E ancora, per quanto riguarda la nostra trasmissione Profondo Rosa, @ondarossa.info, l'indirizzo email per poterci scrivere, e il nostro blog aggiornatissimo profondorosa.noblogs.org. Nonostante i poltergeist che si sono impadroniti qua della radio, per cui i computer fanno cose da soli, vabbè. Ma da giorni, fra l'altro, quindi ormai è roba loro questo posto. Vabbè. Le macchine. queste amiche, molto più spesso nemiche, direi. Comunque, riprendiamo un po' i discorsi dove li abbiamo lasciati un paio di settimane or sono. Abbiamo cominciato questo ciclo, nuovo ciclo di trasmissioni sui, così forse un po' banalizzando, comunque, il rapporto fra i corpi e le frontiere. Abbiamo parlato così delle frontiere all'interno delle nostre città, al confine che viene tracciato molto spesso intorno alla Fortezza Europa, ma anche allo stesso tempo dentro le nostre menti, dentro i nostri modi di vivere quotidiani, e non a caso confini tracciati anche sulla pelle di tante persone che nella fattispecie vengono coinvolte appunto in questo tracciare continuo. E anche abbiamo parlato di come questa costruzione dei confini molto spesso coincida anche con la costruzione di luoghi che rappresentano in qualche modo il punto dove viene relegato l'irrappresentabile, il non coinvolgibile all'interno delle nostre società. Abbiamo parlato di centri di identificazione ed espulsione, abbiamo parlato di Lampedusa, abbiamo parlato del campo profughi, o se vogliamo del lager, come paradigma appunto di questo momento, insomma, delle società in cui viviamo. E anche quest'oggi, con l'apporto di un ospite telefonico, insomma, proseguiremo in qualche modo questo tracciato. Sì, Direi che hai detto tutto e niente, abbiamo un ospite questa volta da Verona, andremo subito a cercarla, si tratta di Paola, insomma una compagna del Circolo Pink, che in qualche modo il Circolo Pink è molto, come dire, in linea con questa nostra lettura di questo nostro percorso, nel senso che il Circolo Pink è un circolo LGBT, IQ, non so, c'ha un sacco di lettere anche il Pink, e, però come dire, è completamente dentro a politiche antirazziste, antifasciste in una città come Verona, e che quindi insomma in qualche modo attraverso il loro lavoro forse riusciamo appunto a tenere una lente che tenga presente anche i corpi mentre si misura come questi corpi vengono chiusi dai muri. Sì, di sicuro il Pink è proprio per la, come dire, in qualche modo l'esistere all'interno di una città come Verona, che sarà senza dubbio uno dei laboratori più importanti delle politiche securitarie, delle politiche fasciste e razziste all'interno del continente europeo, dico proprio del continente Europa, ma forse in generale del mondo intero, visto che veramente parliamo insomma di una punta di diamante che forse così farebbe, a volte fa apparire anche il Ku Klux Klan come qualcosa di così di timido. Di sicuro, dicevo, il Circolo Pink rappresenta ed è quotidianamente un nervo scoperto, no, all'interno del confine, un punto che insomma in qualche modo come dire, si frappone a chi tenta di costruire questi tracciati, questi confini sui nostri corpi, sui corpi tutte quelle persone che vogliono in qualche modo essere espulse dal corpo sociale o vogliono essere proprio tritate all'interno insomma di quelli che sono i lager che quotidianamente vediamo insomma nelle nostre città. Io insomma, dopo questo piccolo preambolo, a questo punto contatterei la nostra ospite telefonica, quindi alcuni secondi di musica e poi rientriamo nuovamente in diretta. Monitor, outside, for the people inside. E allora, come preannunciato, siamo in collegamento telefonico con una compagna del Circolo Pink di Verona. Buonasera, ci senti? Sì, un po' distanti, però vi sento. Ok, proviamo magari ad alzare un pochino alcuni volumi così vediamo se ci ascolti meglio. E niente, abbiamo fatto chiaramente un piccolo escurso insomma su quello che è stato in queste ultime settimane gli argomenti che abbiamo trattato durante la nostra trasmissione. Abbiamo parlato di corpi, di frontiere, di centri di identificazione ed espulsione, del tracciato dei confini che oltre a insomma portare le frontiere a proteggere la cosiddetta fortezza Europa, molto spesso si permette così di costruire dei luoghi come appunto i centri di identificazione ed espulsione o i campi Rom, nel quale appunto relegare chi in qualche modo viene stigmatizzato come non appartenente insomma alla società contemporanea. Sappiamo insomma è uno dei motivi per il quale ti abbiamo interpellato, che insomma il Circolo Pink a Verona si trova quotidianamente insomma ad avere a che fare con corpi e confini. Sarebbe insomma interessante almeno così partire da quella che è la vostra esperienza in un luogo che insomma è un po' un laboratorio politico da tempo su queste tematiche. Sì, è una storia piuttosto lunga, nel senso che copre un arco oramai di più di 10 anni, perché qui a Verona cioè la storia è cominciata non tanto con persone provenienti da altri stati, ma con sinti italiani, dirò di più, veronesi. Quindi è una storia cominciata ancora intorno al 2000 con la giunta che c'era allora di Forza Italia, sindaco di Forza Italia, Michela Sironi. E allora la Sironi aveva nella sua giunta 3 assessori di più o meno dichiarata fede fascista. Uno di questi, Fabio Gamba, era assessore alla sicurezza, ripescò una vecchia ordinanza contro i sacco-apedisti per sgomberare l'insediamento dei sinti italiani che era da anni in un parcheggio vicino allo stadio. E fu l'estate esattamente del 2001, queste famiglie con un sacco di bambini vagarono a lungo per la città sotto la canicola, senza acqua, con la Croce Rossa che proponeva di fare campi di emergenza, sgomberati in continuazione da tutti i posti in cui diciamo così si sistemavano, per finire alla fine, allora facemmo anche delle manifestazioni, una particolarmente fu clamorosa perché portammo con noi in questa manifestazione tutte queste famiglie a fare il bucato e a lavare i bambini nella fontana di Piazza Bra, cioè nella città, nella piazza principale, diciamo, della città dove c'è l'arena, l'anfiteatro romano. Come se la facesse, come se si facesse qui a Fontana di Trevi, per capirci. Esatto, come se si facesse alla Fontana di Trevi. Quindi alla fine tutte queste famiglie furono ospitate in un parcheggio, quindi anche lì comunque con chiaramente problemi di vario tipo, in una circoscrizione che allora aveva un presidente di centrosinistra. Una cosa che scatenò l'ira della Lega, che da sempre, diciamo così, aveva gli zingari, così, era uno dei loro bersagli preferiti e lo è tuttora, a dire la verità, e iniziò quella campagna per cui poi fu condannato per propaganda razzista quello che adesso è sindaco, Flavio Tosi, con altri 5 suoi colleghi della Lega, tutti attualmente in posizioni di prestigio. All'epoca erano in consiglio comunale? All'epoca lui era in consiglio comunale e forse anche regionale, e poco dopo, un paio di anni dopo, si presentò anche alle provinciali. Nel 2002 però, cioè l'anno successivo a questa campagna molto violenta, per cui poi appunto lui sarà condannato, nel 2009, la condanna definitiva della Cassazione, nel 2002 vince Zanotto, Paolo Zanotto, centro-sinistra, cattolico, ma comunque con diciamo una giunta di centro-sinistra, ma una maggioranza risicatissima, che infatti farà una fatica dannata a lavorare per i 5 anni prescritti, diciamo così. Con Zanotto inizia un'altra fase, anche se c'era già stato nel 2001 un episodio, diciamo così, che poi avrebbe scatenato un'altra serie di eventi, e cioè una diecina di famiglie rom rumene, perché intorno a quegli anni cominciano ad arrivare in massa i rom dalla Romania, perché chiaramente dopo la caduta, diciamo così, del muro, eccetera, eccetera, e tutti i rivolgimenti che ci furono in quegli anni nell'est, erano ricominciati i pogrom contro i villaggi rom in Romania, e quindi molti scappavano di qui anche per questioni economiche, perché chiaramente essendo perseguitati non riuscivano neanche più a sostentarsi. Nel 2001 le prime 10 famiglie le ritrovammo noi, alcuni attivisti antirazzisti, antifascisti, in una carbonaia dismessa. Vivevano proprio, diciamo così, nel disastro, cioè l'immaginario più disastroso che uno può avere di un insediamento rom era quello, anche soggetti poi continuamente. Allora la Romania non era in Europa, quindi loro erano clandestini sostanzialmente, quindi soggetti continuamente a violenze, perquisizioni e cose di vario genere. Con queste 10 famiglie allora occupammo una parte del seminario vescovile, e fu quello il primo, diciamo così, episodio in cui i rom rumeni divennero visibili. C'erano già in giro ed erano anche sempre perseguitati, nel senso, o dai vigili o dalla polizia, se li trovavano a dormire in campagna piuttosto che in qualche piazzale, eccetera, eccetera. Però quella volta, per la prima volta, diventarono visibili. Lì l'occupazione finì, diciamo, positivamente con l'intervento della Caritas veronese, che si fece carico di queste famiglie, le trasferì prima in una colonia in montagna e poi in concessione di una casa, una grande casa in campagna, una grande corte nella bassa veronese, in concessione, dove sono vissuti per molti anni. Adesso io ho perso un po' di contatti con loro, perché poi molti sono tornati via in Romania e in altre parti, però insomma hanno vissuto lì per anni, e questi furono, diciamo, il primo caso visibile di rom rumeni. Quando vince Zanotto nel 2002 però ce ne sono altri 300-400 che occupano un grande spazio verde all'interno della città, sostanzialmente un parco abbandonato. Sono in 300-400, sono tantissimi, naturalmente donne, bambini, vecchi, cioè, ammassati in baracche, eccetera, eccetera, e devo dire che lì l'amministrazione Zanotto fu piuttosto, da una parte, veloce, nel senso che li trasferì abbastanza velocemente al parcheggio dello stadio, con roulotte, luce, acqua, eccetera, eccetera, quindi in condizioni igieniche, diciamo così, dignitose, e però fece forse un errore di valutazione o di non conoscenza, comunque, perché è chiaro che questo è un problema anche su cui si ha scarsa conoscenza di solito, e affidò, diciamo così, la gestione di questo campo provvisorio ad alcune associazioni che in realtà non si erano mai occupate di problemi appunto riferiti ai rom o ai sinti, eccetera. e che quindi iniziarono tutto un percorso, diciamo così, abbastanza controverso, tant'è vero che si arrivò ad uno sgombero addirittura di questo campo provvisorio con la giustificazione che sarebbero tutti stati, tutti, cioè la parte scelta, adesso vi dico qual era, sarebbe stata trasferita in un nuovo campo, e la parte scelta era quella delle famiglie che avevano figli in età scolare, perché il progetto era di scolarizzare i bambini, iniziare un percorso, come lo chiamano loro, di integrazione, e eccetera eccetera, quindi lasciando a piedi praticamente tutte le famiglie che avevano invece bambini piccoli o non avevano figli, oppure li avevano troppo grandi per essere scolarizzati, ed erano un bel po' anche loro. Quindi ci fu una nuova, diciamo così, mobilitazione. Queste persone che erano state sgomberate finirono prima in un asilo, lì forse qualcuno si ricorderà perché uscirono anche parecchi articoli su Liberazione, su Manifesto, eccetera. Prima in un asilo nido dismesso in un quartiere dove fummo anche assediati da parte degli abitanti e Forza Nuova, quindi dentro i Rom con gli attivisti antirazzisti, fuori i nazi con volantini inneggianti a bruciare gli zingari e cose di questo tipo. Finché il comune li trasferì prima in una struttura in montagna, Bosco Chiesa Nuova qua in Vestinia, e poi anche loro, anche questa parte, quindi la parte diciamo di quelli che avrebbero dovuto essere sgomberati, nel nuovo campo di Bosco Mantico, che è una località nei pressi di Verona, dove c'erano già diciamo quelli che il comune aveva deciso di salvare. A questi si aggiunse un terzo gruppo, che erano quelli scappati sempre dal medesimo sgombero e che non avevano avuto il coraggio di venire nella scuola appunto gestita dagli attivisti antirazzisti, e che soggiornavano, ormai era già inverno, sotto un ponte della tangenziale. Anche questi furono recuperati sempre con forti pressioni delle associazioni comunque antirazziste e trasferiti anche loro in questo campo, che durò un paio d'anni, sempre affidato però ad una gestione di associazioni che nulla avevano a che vedere, cioè non l'opera nomadi, non le associazioni antirazziste ritenute probabilmente troppo di sinistra dalla giunta di allora, ma da associazioni di volontariato o del terzo settore che si erano occupate fino allora di tossicodipendenti, quindi con una gestione, diciamo, insomma, definiamola controversa, ecco, per non essere troppo. Tant'è vero che ci fu anche uno scandalo, perché con dimissioni dell'assessore di allora ai servizi sociali, perché si scoprì che nel campo appunto avvenivano attività illecite all'insaputa chiaramente delle associazioni che lo gestivano. In questi stessi anni la Lega, dunque, sottolineo che Flavio Tosi era già stato rinviato a giudizio e quindi era in pratica sotto processo per violazione della legge Mancino. La Lega fa varie visite nei pressi del campo e poi addirittura una specie di diciamo così una manifestazione non autorizzata puntando su questo campo. Era il 2004, la situazione fu salvata proprio dalle associazioni antirazziste che si frapposero fra la manifestazione della Lega e i cancelli di entrata del campo, finché non arrivarono le forze dell'ordine. In quell'occasione ci sarebbe stato, come dice sempre uno dei nostri avvocati, anche l'occasione di fare un prosieguo, diciamo, di quell'esposto che appunto diede poi origine a tutto il processo ai leghisti. ma nessuno ci pensò chiaramente nel momento così cruciale di quei giorni là, perché i leghisti si presentarono davanti al Carporom di Moscomantico nel 2004, quindi 3 anni dopo la campagna che avevano fatto e per cui poi sarebbero stati condannati, con gli stessi cartelli che avevano usato nel 2001. Ecco, quindi la Lega, diciamo così, che in tutti questi anni non ha mai cessato di così prendere i Rom, i zingari, come dicono loro in accezione generale, come bersaglio. E proprio su questa debolezza, se vogliamo, anche della giunta precedente, che fra l'altro poi sgombererà anche un altro campo, fra virgolette, abusivo di Rom rumeni, sempre nelle vicinanze di Verona, che poi avranno invece tutta un'altra storia, e che verranno anche questi aiutati, eccetera, eccetera, dal Circolo Pink e da tutte le associazioni e collettivi che in quel momento lavoravano a Verona. Ma questa campagna, diciamo così, razzista, fortemente razzista della Lega, poi cosa produce? Produce che Tosi vince con il 60% nel 2007 e vince le elezioni e diventa sindaco. Uno dei suoi obiettivi dichiarati in campagna elettorale, oltre che di chiudere il centro sociale La Chimica, cosa che farà quasi immediatamente, provvedendo anche a demolire la palazzina per ricostruirne poi un'altra, ironicamente secondo noi dedicata a Nicola Tommasoli, attualmente, Tosi chiude con delicatezza i campi Rom, chiude con delicatezza perché nel frattempo la Romania è entrata in Europa e quindi Rom e rumeni non sono più clandestini, sono cittadini europei. Però lì... Che significa con delicatezza? Tutte le sue strategie, diciamo così, migliori, sempre tra virgolette, e riesce a chiudere i campi Rom con il beneplacito delle associazioni, beneplacito comunque, insomma, con la tacito accordo delle associazioni che ci lavoravano, distribuendo i Rom in provincia. Cioè, quello che lui fa è di mettersi d'accordo con tutte queste associazioni, parliamo naturalmente di grosse associazioni, Caritas, cioè Buon Calabria, tutte associazioni, diciamo così, chiaramente di impronta cattolica, ma sono grosse associazioni del terzo settore che si occupano di handicap, di comunque servizi sociali, eccetera, eccetera, e quindi disperde, diciamo così, la comunità Rom rumena in tutta la provincia. Molti naturalmente tornano in Romania, molti espatriano, adesso noi abbiamo ancora qualche contatto con qualche famiglia, c'è chi è negli Stati Uniti, chi è in Belgio, chi è in Francia, chi è magari dai parenti in Italia, al sud, eccetera, comunque lui riesce a, diciamo così, ad attuare quello che si era prefisso. Cosa succede? Di campi chiamati così, che poi non sono neanche così, campi Rom a Verona, ne avanza uno che è occupato da tempo immemorabile da una comunità Rom che proviene dalla ex Jugoslavia, ma non in seguito alle ultime guerre di 20 anni fa, ma addirittura credo da subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi una comunità che è qui da un sacco di tempo e che ha in concessione un terreno sempre vicino a Verona dove è stato costruito una specie di villaggio. Non ancora evidentemente contenti, anche perché non so se avete notato, voi avete la televisione, magari io non ce l'ho, ma mi dicono che Tosi è presente in tantissime trasmissioni dove fa un po' il democratico, un po' insomma... il leghista, insomma, buono, dal eccetera, eccetera. Sì, sì, fa il democratico, io posso attestarlo. Ora, ultimamente non l'ho visto, ma diciamo così, insomma, sì, ecco. Il leghista dal volto umano, sì. Meno becero, no? Sì, quello sì. Che, ma ecco, no, l'ultima trovata, perché ci mancava, cioè, diciamo, ma com'è finita qua con gli zingari che non ha più detto niente? Perché nel frattempo non è che da quando è stato condannato, anche prima quando era sotto processo, sia stato tranquillo, vero? Perché cioè, io qua sto sulla sedia, ci avrò 30 kg di rassegna stampa in cui mi dice da tutti da togliere la patria potestà ai genitori che portano i bambini a chiedere l'elemosina, cioè abutad continue sui giornali locali, eccetera, che poi non arrivano naturalmente sulla stampa, sui media nazionali. Comunque l'ultima trovata è stata questa. Allora, questo regolamento di questo campo che si chiama area di sosta attrezzata per nome di Sinti, denominata Forte Azzano, ha un regolamento che è molto restrittivo, perché per avere l'autorizzazione bisogna avere un sacco di requisiti. Per esempio, già l'accensione di fuochi con immondizie, materiali nocivi che danno origine a fumi, insomma, dà diritto di togliere l'autorizzazione, come, non so, mancato pagamento della tariffa richiesta dall'amministrazione per un periodo superiore a 3 mesi, il mancato pagamento dei consumi delle utenze e la raccolta rifiuti per un periodo superiore a 3 mesi, aver abbandonato l'area sosta per un periodo superiore a 6 mesi, salva preventiva autorizzazione della commissione del campo, eccetera, eccetera. Cioè, dà un regolamento piuttosto tosto, in cui all'articolo 8 si dice, fra gli altri, anche per togliere sempre revoca o diniego di rinnovo dell'autorizzazione, essere condannati per reati contro il patrimonio e le persone, con particolare attenzione alle recidive. Allora, questo è stato trasformato con l'approvazione del Consiglio Comunale circa un mese fa in essere condannati anche in primo grado, ok, per reati contro il patrimonio, le persone e o la pubblica amministrazione. E nel testo iniziale, addirittura quello proposto all'inizio, era essere arrestati, neanche condannati in primo grado, solo essere arrestati. Poi il Consiglio Comunale, qualche anima pia, mi ha fatto notare che spesso gli arresti sono sbagliati, nel senso che arrestano una persona sbagliata, o non so, può esserci un caso di omonimia, può esserci un caso qualsiasi, eccetera, eccetera. Allora hanno tolto arrestati, però insomma basta essere stati condannati anche in primo grado. Chiaramente quel poco di opposizione che c'è si è scatenata dicendo no, questa norma è anticostituzionale, faremo questo, faremo quello. Però ecco, nel frattempo comunque è stata approvata questa norma, non credo che sia stata ancora attivata, cioè che sia stata messa in pratica, però adesso insomma nel nuovo regolamento per avere il diniego di questa autorizzazione a stare in questa area di sosta basta essere stati condannati in primo grado. Credo che sia un caso, non so se è l'unico, ma sicuramente non credo che ce ne siano molti, ecco, di provvedimenti di questo tipo. E qui insomma si arriva alla conclusione di questo, nel senso, in questa narrazione che tu ci facevi, la cosa che colpisce, no, è che queste persone, uomini, donne, bambini, bambine, tutto quello che erano, non sono evidentemente come gli altri, no? Vengono presi, spostati, li metto nel parcheggio, no? Li tolgo dal parcheggio, li metto in provincia, no? Li tolgo dalla provincia, eccetera, eccetera. Ma sai, non sono come gli altri perché cioè, per molti motivi. Adesso, per esempio, i sinti italiani di cui parlavamo all'inizio, quelli contro cui poi fu scatenata la famosa campagna di Tosi e soci, quelli ancora con Zanotto poi tornarono nel loro piazzale vicino allo stadio e sono ancora lì, perché è una zona che è da sempre, insomma, storicamente è stata adibita alla sosta dei giostrai, ok? Quindi diciamo che la gente che lavora, no, nello spettacolo viaggiante, ha sempre avuto, diciamo, quest'area dove poteva sostare. Lì ci sono anche però questi sinti che sono in realtà poi stabiliti lì, ma sono veronesi, sono nati a Verona, hanno la carta d'identità, hanno la residenza lì, eccetera, eccetera. Quindi ogni tanto vengono, diciamo così, cioè viene fuori qualche scandaletto, qualcosa, o perché viene fuori che qualcuno sostiene che si sono attaccati alla luce senza pagarla, piuttosto che aver preso l'acqua da un'altra parte, però cioè, questi qui sono lì. Ma chiaramente quello che bisogna fare è vigilare perché cioè, restino lì e vivano anche una vita dignitosa e non siano continuamente, no, sotto tiro semplicemente perché sono sinti. Ma il fatto che siano italiani e veronesi li aiuta, sì, no, rispetto, dico, a questa amministrazione. Ecco, però chiaramente il fatto di, con la giustificazione, sempre con questa cosa della sicurezza, no, eccetera, eccetera, perché quando è stato proposto questa variazione di questo regolamento, che è chiaramente incostituzionale, sono state tirate fuori presunti reati commessi da qualcuno che sta in quest'area di sosta, eccetera, eccetera, ed è questo che vuol dire, no, il razzismo, cioè prendere due persone che magari sono di quell'area di sosta, che hanno commesso un reato, e addebitare a tutta la comunità questo tipo di comportamenti. Cioè è questa la, no, la, sì. Sì, sì, la vera sostanza, no, della questione, ed è quello che qui si fa quotidianamente. E la cosa più sconvolgente è che questo a livello della popolazione ha successo, tant'è vero che Tosi è stato anche riconfermato al secondo mandato. Non sono politiche, almeno in questa parte di territorio italiano, Veneto, Nord-Est, impopolari. E questa è la tragedia, credo. Di sicuro c'è una questione, no, fondamentale, che, alla quale alcune volte nelle passate trasmissioni abbiamo accennato, ovvero il fatto che la questione così del razzismo come paradigma, perché di fatto è questo, no? Quando tu dici che una persona come dire, perseguibile in quanto non ha dei documenti o in quanto semplicemente appartiene a una categoria, certo, come dire, come tu facevi l'esempio adesso, no? Dei sinti. I sinti sono nati a Verona, però di fatto, essendo sinti, appartengono, no, a una categoria che è potenzialmente perseguibile. Certo. Questa cosa diventa un paradigma, di fatto diventa un modo attraverso il quale poter trattare, poter fare, come dicevi tu, delle leggi ad hoc, poter perseguire in maniera specifica delle, certo, situazioni, soltanto perché a quel punto è possibile, certo, poi fare, no, il passaggio ulteriore di mettere, beh, insieme tutte queste entità. Per questo, allora, quando è successa, allora noi siamo andati chiaramente alla seduta del Consiglio Comunale in cui si discute, siamo andati anche prima alla seduta della Commissione che prima ha approvato questa miseria, ok? Allora, siamo andati in Consiglio Comunale, qualche anima pia anche del centrodestra, che non ha tutte le sinapsi evidentemente malmesse come altri, si è anche alzato per dire: ma scusate, ma voi dite che questo regolamento fatto così lo fate perché quest'area di sosta è stata data in concessione, no, dal comune, e quindi deve avere, ma le case comunali, cioè quelle, le famose case popolari, ok? Qui si chiama AGEC, l'azienda comunale che le gestisce. Quelle lì, le case dell'AGEC, dove ci abita di tutto di più, quelle lì non hanno neanche, cioè, una parvenza lontana di questo regolamento. Cioè, questo regolamento è fatto solo per quell'area di sosta lì, perché lì ci sono gli zingari. Non perché sia un'area che è stata data in concessione, perché allora se il comune con tutte le cose che ha in concessione dovesse fare regolamenti del genere, capisci, cioè, dov'è la cosa strisciante? Sì, certo. Ma tu prima dicevi che queste politiche a Verona hanno anche successo, certo. E nel senso, noi insomma da questi microfoni abbiamo provato più volte a analizzare perché, come dire, i poteri portano avanti questo tipo di strategie razziste, fasciste, eccetera, eccetera. Meno ci siamo occupate invece di cercare di capire perché poi c'è un riscontro tra la popolazione, diciamo. E voi vi siete fatto un'idea del perché in un territorio come Verona hanno riscontro politiche così violentemente razziste? Ma guarda, adesso ci sarebbe da parlare ben di più, credo, del tempo che abbiamo a disposizione, credo che cioè, tutta l'involuzione dal punto di vista sociale, etico, politico che sta subendo la nostra società in questi anni, insomma, questi sono dei sintomi chiarissimi. Nel senso che quello che viene agitato continuamente è la paura, no? La paura che ti tolgano qualcosa, la paura che ti facciano questo, la paura che ti facciano quell'altro, cioè le campagne sulla sicurezza sventolano continuamente questo spettro, no? Almeno per quello che riguarda gli zingari, Rom, Sinti, cioè loro mettono dentro tutti insieme, li chiamano ancora nomadi, anche se non sono nomadi da una vita, perché non c'è più neanche il tessuto economico per cui loro possano ancora esercitare il nomadismo, no? Perché tutti i loro lavori oramai, quelli che facevano, non esistono praticamente più, quindi ancora li chiamano nomadi, zingari, nomadi, eccetera, si sbagliano ancora fra Sinti, Rom, insomma, no? C'è una non conoscenza, uno sventolamento continuo, no? Proprio di pancia, di questa paura, e poi devo dire c'è un lavoro dei media che è miserando da questo punto di vista, perché io credo che in tutte le città, o quasi molte città, ecco, a parte forse le città grandi che hanno più giornali, eccetera, ma dove c'è una stampa locale molto sottomessa, no? Molto così, che si prende i comunicati stampa e se li beve come se, no, fossero una verità rivelata, c'è questo pericolo, no? Perché c'è la zingara che chiede l'elemosina col bambino, ma in realtà questo c'è scritto su certi articoli di giornale, c'è stato scritto qua a Verona, ma in realtà guarda gli appartamenti che sono vuoti perché così dopo dà le indicazioni per andare a svaligiarli, oppure presunti traffici di bambini, ma insomma lo sapete anche voi, no? Tipo, non so se vi ricordate quella cosa che non so se era successa in Lombardia o in Piemonte, di quella bambina che era sparita e dicevano che l'avevano presa di zingari, poi invece era una bufala, eccetera, eccetera. Comunque, ecco, gli zingari fanno parte del problema. Cioè tutto quello che non è conforme, come le zecche, come i centri sociali, come eccetera, eccetera, no? Cioè tutto ciò che non è conforme, e loro sicuramente non lo sono. Certo, infatti, sì, infatti credo che il punto stia qui, insomma, in una linea, sì, in una linea che viene posta tra ciò che è normale e ciò che non lo è. Certo, solo che c'è una spaventosa, e adesso so, e anche noi ogni tanto collaboriamo con tutti questi progetti, no, di denuncia delle discriminazioni, di questo, di quello, di quell'altro. Speriamo che servano anche a qualcosa, però ci sono fra le persone, diciamo così, che comunque ci amministrano, sia localmente, io credo che a livello nazionale, e forse anche sovranazionale, ci sono delle persone che incentivano questo tipo di pensiero attraverso il loro potere di influenzare appunto i media in tutti i modi, che adesso sono comunque un po', no, il verbo, perché cioè adesso tutto ciò che fa notizia, diciamo, comunque da qualche parte passa, ok? Quindi secondo me c'è una grossa responsabilità, ecco, e credo che per molti versi anche alcuni organi governativi, eccetera, eccetera, si stiano rendendo conto, non so, sul linguaggio, no? Su come vengono trattate le notizie, sul fatto che quando vengono arrestati degli stranieri o appunto dei Rom, fotografia, nome, cognome, quanti anni ha, cosa fa, cosa non fa, da dove viene, cioè vengono sempre sbattuti, vengono comunque trattati in un altro modo. Ecco, credo che anche i media e comunque l'informazione in genere abbia le sue responsabilità in questo tipo di, diciamo così, di pensiero. Senti, io niente, purtroppo siamo un po' in conclusione di trasmissione, visto che alle 19.30 certo. Va in onda il GR. Io intanto ti ringrazierei moltissimo, insomma, per quanto ci hai raccontato, e insomma, magari sicuramente ci sarà modo di risentirci da qui ai prossimi mesi, anche per vedere, insomma, come si evolverà questa questione riguardo la città di Verona. Intanto un abbraccio e insomma un caloroso ringraziamento a te e a tutto il Circolo Pink, e insomma ci risentiamo quanto prima. Ok, ciao a tutti, alla prossima. Ciao. E allora chiudiamo qua questa puntata di Profondo Rosa, sono le 19.30, fra pochissimo il GR di Radio Onda Rossa, e buona serata a tutti e a tutti. Qualche minuto di ritardo sul GR, aspettatelo. Sì. Aspettatelo, comunque fra poco riprenderemo la diretta e andremo in onda con il GR. A fra pochissimo. Ciao.